dispiace che sono stato aggiunto un po' con altro. No, io ce l'ho qua, no, mi sto toccando, ce l'ho fatto. Io sto tornando, non ho fatto più niente, cioè, io ce l'ho qua, se non vuoi lasciare la garrotta la sua pure, tanto per intenderci. Ma ho sentito da voi stamattina che c'era portante anche ieri. Allora, qua. Sì, io. Ho saluto la macchina che ha chiuso. C'ero io tranquillamente con Mattarino, con Marco, con Gianni, e la sto portando. Ma il pomeriggio, non lo so, io così ho partito con lui. Ma da chi? Non lo so, la portante mi ha detto Sarra, ma sì. E così il nome ha detto che era qui, sicuramente. Ma qua ho detto troncato perché c'ero io. Va bene, allora. L'altra troncata. Ieri sera non ho San Marco, o qua, non mi sono a mangiare. Non è San Marco per un po', quindi è andato a mangiare, diciamo di sì, però me la stavano mettendo a Marco. Ma ieri sera a che ora? Non è andato a mangiare qua. Non ho registrato. Ma ieri sera lo copriva a Marco? Sì, lo copriva, di brutto. Lo copriva proprio totalmente. E non ne ho, vabbè. Se sono stato io avrei detto subito chi era, perché se ne avessi un confondibile qua, quindi... Sì, la metto io la portante, sotto casa sua però vado con la macchina io, non so più. Si va con Capacco, mi arriva un bel posto, mia amica, e non ho 30 qua, figurati, e non copriva totalmente. Già, da te arrivano tutti a 9.30, con lo smister è normale, so più. Ma io qua, prima di arrivare a P60 ce ne vuole, so più. Quindi già me la ricordo subito io. Se è quello che penso io è più vicino a te, è chiaro che lo copro, ma normale, ci mancherebbe altro. Comunque non sto parlando forte, è difficile che non lo possa, quello che ti voglio dire, segnale non è più affidabile quello dell'apparato mio, perché diciamo, è un fenomeno analogico o digitale, non è che sia affidabilissimo, però c'era un operatore che si sente che sarà ancora già. Vediamo un pochino qualcosa, c'è roba interessante, ma adesso Marco a due lire, vediamo un po'. Roberto Correttino. Natalino. Da Roberto ci vediamo, dai. Tu fra alla presa si va lì. Ciao ciao. Ciao a tutti, buona serata. Chiamami con quel piccolino quando si sta arrivando. Va benissimo, buona serata a tutti, per me Correttino. Ciao ciao. Ciao Freccia. Ciao ciao ciao te. Ciao anche a te Natalino. No, passeggiato. Io avevo il misuraio un paio d'osso, no? No, non faccio niente. Ci sentiamo stasera Gianni. Ciao anche a te Salvedio. Ciao a tutti Correttino per me. All right.